Il pensiero di Wakeham suscitò nuove emozioni, sicché, dopo un momento di silenzio, egli cominciò a guardarsi l'abito che aveva indosso e a frugare nelle tasche laterali. Poi si rivolse a Tom e disse, con la brusca maniera d'un tempo, dove hanno messo la lettera di Gore? Questa era portata di mano in un cassetto perché spesso egli l'aveva richiesta. Lo sai cosa c'è nella lettera, babbo? Disse Tom mentre gliela porgeva. Certo che lo so, disse Mr. Tulliver piuttosto irritato. Ma cosa importa? Se Furley non può accollarsi la proprietà, qualcun altro potrà farlo. C'è tanta gente a questo mondo oltre Furley, ma l'impiccio è che io non stia bene. Andate a dire che attacchino il cavallo al calessino, Luke, fino a St. Oaks ci arriverò abbastanza bene, Gore è là che mi aspetta. No, caro babbo! Gridò Maggie con voce supplichevole. È passato tanto tempo dopo tutte queste cose. Voi siete stato ammalato per molte settimane, per più di 2 mesi. E tutto è mutato. Mister Tulliver fissava ora l'uno ora l'altro dei tre con uno sguardo sorpreso. L'idea che fossero successe molte cose di cui egli non sapeva nulla l'aveva spesso attraversato fugacemente, anche prima, ma ora lo assalì come fosse completamente nuova. Sì, babbo, disse Tom rispondendo a quello sguardo, non devi romperti la testa con gli affari finché non ti sarai completamente rimesso. Per il momento tutto è sistemato riguardo al mulino e alla terra e ai debiti. Ma cosa è sistemato allora? Disse il padre con ira. Oh, non prendetevela troppo per queste cose, signore, disse Luke. Se aveste potuto, voi avreste pagato tutti. Questo era ciò che io dicevo a Mr. Tom, che voi avreste pagato tutti se aveste potuto, gli dicevo. Il buon Luke, nei modi dell'uomo tranquillo e laborioso che ha passato la propria vita a servire, era sensibile a quella naturale stabilità delle classi sociali che rendeva tragica ai suoi occhi la caduta del padrone. Tardo com'era, provava tuttavia il bisogno di dire qualche cosa che esprimesse quanta parte gli prendeva quelle pene della famiglia. E le parole che aveva dette e ripetute a Tom per rifiutare il denaro dei ragazzi in pagamento delle sue 50 sterline furono le più pronte a venirgli alle labbra, ed erano proprio le parole che più penosamente facevano presa sulla testa confusa del padrone. «Pagati tutti?» domandò con viva agitazione, col viso che gli si imporporava e gli occhi che s'accendevano. «Come? Cosa? Mi han dichiarato in bancarotta!» «Oh, babbo!» Caro babbo, disse Maggie, la quale pensava che quella terribile parola rappresentasse realmente la verità. Sopportalo con fermezza, perché noi ti vogliamo bene, i tuoi figli ti vorranno sempre bene. Tom pagherà tutti, ha detto che pagherà quando sarà uomo. Sentì il babbo che cominciava a tremare, e anche la voce gli tremava quando disse, pochi minuti dopo, mia piccola, ma io non vivrò 2 volte. Ma forse vivrai abbastanza per vedermi pagare tutti, babbo, disse Tom parlando con grande sforzo. Ah, ragazzo mio, disse Mr. Tulliver tentennando il capo lentamente, quel che è rotto non può più tornar sano. Sarà opera tua, non mia. Poi, guardandolo, tu non hai che 16 anni. È un'ardua battaglia per te, ma non dovrai mai rinfacciare nulla a tuo padre. Troppi sono stati farabutti per lui. Io ti ho procurato una buona educazione, questa servirà per avviarti. Qualche cosa nella strozza gli aveva mezzo soffocato le ultime parole. Il rossore che aveva allarmato i suoi figli, perché era stato così spesso precursore di un ritorno della paralisi, era svanito e il suo viso appariva pallido e agitato. Tom non disse nulla, stava lottando contro il desiderio di fuggirsene via. Il padre rimase tranquillo per un minuto o due, ma non pareva più che il suo spirito tornasse a smarrirsi. «E allora? Hanno messo all'asta la mia roba?» disse più calmo, come fosse stato semplicemente animato dal desiderio di sapere cos'era successo. «Tutto è stato venduto, babbo, ma per quel che riguarda il mulino e le terre non sappiamo ancora nulla di definitivo», disse Tom, ansioso di evitare qualunque domanda da cui potesse emergere il fatto che Wakeham era il compratore. Non devi sorprenderti se troverai piuttosto vuota la camera di sotto, babbo, disse Maggie. Ma c'è ancora il tuo seggiolone, eh? Il tuo scrittoio, quelli non sono andati via. Andiamo. Datemi una mano, Luke, voglio andare a vedere tutto, disse Mr. Tulliver, appoggiandosi al bastone e tendendo l'altra mano verso Luke. Signore, disse Luke, dando il braccio al padrone, vi adatterete un po' meglio all'idea quando avrete visto tutto, ci farete l'abitudine. È quel che dice mia madre del suo fiato corto. Dice che ora sono diventati amici. Ma quando l'hai preso per la prima volta ha dovuto tribolare contro quel malanno. Maggie si precipitò prima degli altri per vedere se tutto era in ordine nella sala vuota, dove il fuoco, offuscato dalla gelida luce del sole, sembrava partecipare della generale miseria. Voltò il seggiolone del padre e spinse da un lato la tavola per preparargli un passaggio più facile, poi rimase lì, col cuore in tumulto, a vederlo entrare e guardarsi intorno per la prima volta. Tom lo precedeva, portando lo sgabello, e si fermò accanto a Maggie presso il focolare. Di quei due giovani cuori, quello di Tom soffriva il dolore più semplice perché a Maggie, con la sua viva sensibilità, pareva quasi che la pena lasciasse alla tenerezza un più largo sfogo in cui fluire e desse un più ampio respiro alla sua natura appassionata. Un vero ragazzo non può sentire queste cose. Egli andrebbe ad abbattere il leone Nemeo o a compiere un ciclo di fatiche eroiche piuttosto di dover subire dei continui appelli alla propria compassione per mali su cui non può riportare vittoria alcuna. Mr. Tulliver si fermò sulla soglia della porta, appoggiandosi a Luke e guardando intorno a sé tutti quei posti vuoti che per lui erano occupati dalle ombre degli oggetti scomparsi, quotidiani compagni della sua vita. Le sue facoltà parvero ripristinate nel loro vigore sulle assise di questa rivelazione dei sensi. Ah, disse lentamente, avanzandosi verso il seggiolone. Tutto mi hanno venduto. Tutto mi hanno venduto. Poi, sedendosi e posando il bastone, tornò a guardarsi d'attorno mentre Luke usciva dalla camera. Hanno lasciato la grossa Bibbia, disse. C'è tutto là dentro, quando sono nato e quando mi sono sposato. Portamela, Tom. La Bibbia in quarto fu aperta davanti a lui al foglio volante, e mentre egli leggeva, scorrendo lentamente con l'occhio, Mrs. Tulliver entrò nella camera, ma rimase muta di sorpresa nel trovare il marito già lì da basso con la grossa Bibbia davanti a sé. Ah, disse egli, guardando il punto dove le sue dita si erano fermate. Mia madre era Margaret Beaton. È morta a 47 anni. Non era di famiglia longeva. Noi siamo figli di nostra madre, Gritty e io. Ce ne andremo presto alla nostra ultima dimora. Parve fermarsi sulla notazione della nascita e delle nozze di sua sorella, come se questo gli suggerisse delle nuove idee. Poi, d'improvviso, alzò gli occhi su Tom e disse con brusca voce d'allarme: Non hanno mica dato delle noie a Moss per il denaro che gli ho imprestato, non è vero? No, babbo, la cambiale è stata bruciata. Mr. Tulliver riabbassò gli occhi sul foglio e poco dopo disse: Ah, Elizabeth Dodson, sono 18 anni che l'ho sposata. Alla prossima annunciazione, disse Mrs. Tulliver accostandosi a lui e guardando il foglio. Il marito le fissò gravemente gli occhi in volto. Povera Bessie, le disse. Eravate una bella figliuola allora, tutti lo dicevano. E ho sempre trovato che vi conservavate magnificamente, ma i dispiaceri vi hanno invecchiata. Non me ne serbate rancore, ho sempre voluto agire bene verso di voi. Ci siamo promessi l'uno all'altra per i giorni buoni e per i giorni tristi. Ma non pensavo che ne sarebbero venuti dei così tristi. Disse la povera Mrs. Tulliver con quello sguardo strano e smarrito che le era venuto da qualche tempo. E il mio povero babbo aveva dato il consenso perché si giungesse a questo. Oh, mamma, disse Maggie, non dire così. No, lo so che non lasciate parlare la vostra povera mamma. È stato sempre così per tutta la mia vita. Vostro padre non ha mai badato a quel che io dicevo. Potevo pregare e supplicare che tanto non sarebbe servito a niente e non servirebbe a niente neanche adesso, neppure se mi trascinassi a terra, sulle mani e sui ginocchi. Non parlate così, Bessie, disse Mr. Tulliver, la cui fierezza in questi primi momenti di umiliazione era tenuta in sospeso dal senso che nei rimproveri della moglie potesse esserci una certa giustizia. Se mi è dato ancora di far qualcosa per compensarvi, certamente non dirò di no. Ebbene, si potrebbe rimanere qui, dove avremo di che vivere, ed io sarei ancora tra le mie sorelle, io che sono stata una così buona moglie per voi, e non v'ho contrariato mai, per quanto sono state lunghe le giornate. E tutti dicono che sarebbe più che giusto, siete solo voi che ce l'avete così amara contro Wakem. Mamma! Disse Tom severamente, non è il momento di parlarne. Oh, lasciala parlare, disse Mr. Tulliver. Dite quel che pensate, Bessie. Ebbene, adesso che il mulino e la terra sono di Wakem ed è lui che ha tutto in mano, cosa serve che vi rivoltiate contro di lui? Quando egli dice che potete starvene qui e parla che meglio non si potrebbe e dice che voi potete fargli da gerente e avere 30 scellini alla settimana e un cavallo per andare al mercato. Dove potremmo posare il nostro capo, noi? Dovremmo andare a finire in una capanna, nel villaggio, essere ridotti a questo punto, io e i miei figli. E tutto perché voi vi siete talmente ostinato contro certa gente che è impossibile farvi cambiare idea. Mr. Tulliver si era lasciato ricadere, tremando sul suo seggiolone. Potete far di me quel che volete, Bessie, disse a bassa voce. Sono io che vi ho ridotta alla miseria. Questo mondo è troppo forte per me. Io non sono che un bancarottiere. Ormai non mi serve più di battagliare. Babbo, disse Tom, io non sono d'accordo con la mamma e con gli zii. Non credo che tu debba soggettarti a stare sotto a Wakem. Io ora guadagno una sterlina alla settimana e tu potrai trovare qualcos'altro da fare quando starai bene. Non dire altro, Tom, non dire altro. Ne ho sentite abbastanza per oggi. Datemi un bacio, Bessie, e non serbiamoci rancore tra di noi. Giovani non torneremo mai più. Questo mondo è stato troppo complicato per me. 9. Un paragrafo aggiunto al registro di famiglia. Quel primo momento di rinuncia e di sottomissione fu seguito da giorni di lotta violenta nello spirito del mugnaio, di mano in mano che il ritorno delle forze fisiche portava seco una crescente facoltà di abbracciare in un solo sguardo le condizioni contraddittorie in cui egli si trovava. Le membra deboli si rassegnano facilmente ad essere vincolate, e quando noi siamo vincolati dalla malattia ci par possibile di mantenere degli impegni che invece il ritorno del nostro antico vigore spezza e porta via. C'erano dei momenti in cui il povero Tulliver pensava che il tenere le promesse fatte a Bessie fosse veramente qualcosa di troppo superiore alle forze di un uomo. Aveva promesso senza sapere ciò che ella avrebbe detto. Allo stesso modo avrebbe potuto magari chiedergli di portare sulle spalle una tonnellata di peso. Ma c'erano poi parecchi sentimenti che militavano in favore di lei. Oltre alla sensazione che la vita le era stata resa difficile dall'averlo sposato, Tulliver vedeva la possibilità di risparmiare sul proprio salario con molte economie il denaro per pagare un secondo dividendo ai creditori, né gli sarebbe stato facile di trovare altrove un'occupazione che fosse in grado di disimpegnare. Era vissuto con facilità, dando molti ordini e lavorando poco. E non aveva attitudini per un nuovo genere di affari. Avrebbe forse potuto prendere un lavoro a giornata e sua moglie ricevere un aiuto dalle sorelle. Prospettiva doppiamente amara per lui ora che esse avevano lasciato andar venduti tutti gli oggetti preziosi di Bessie, probabilmente perché avevano caro di metterla contro di lui, facendole sentire che lui era stato a ridurla a quel punto. Quando vennero a ricordargli ciò che aveva il dovere di fare per la povera Bessie, stette a sentire il predicozzo con gli occhi rivolti altrove, fulminandole ogni tanto furtivamente, allorché gli voltavano le spalle. Bastava il timore di aver bisogno del loro aiuto per rendergli più facile l'alternativa di ricevere i loro consigli. Ma di tutte le influenze, la più forte fu l'amore per la vecchia casa che aveva corsa in lungo e in largo da fanciullo, proprio come Tom aveva fatto dopo di lui. I Tulliver erano vissuti in quel luogo da generazioni. Nelle sere d'inverno egli si era seduto su un piccolo sgabello ad ascoltare il padre quando narrava del vecchio mulino mezzo di legno che era sorto là prima dell'ultima grande inondazione. ma questa l'aveva talmente avariato che il nonno l'aveva abbattuto per costruire il nuovo. E quando fu in grado di camminare e di andare a vedere tutte quelle vecchie cose, sentì la forza del suo attaccamento per la vecchia casa, come per una parte della propria vita, una parte di se stesso. Non poteva reggere al pensiero di abitare altrove che lì, dove conosceva il rumore di ogni cancello e di ogni porta, e sentiva che la forma e il colore di ogni tetto e ogni patina del tempo e ogni movimento di terreno erano buoni perché la sua sensibilità si era sviluppata nutrendosi di loro. I nostri evoluti vagabondaggi, che non sanno trovare il tempo di aggirarsi lungo le siepi di campagna, ma si precipitano subito verso i tropici e ci fanno sentire come di casa tra i palmizi e i banani. Questi vagabondaggi covati sui libri di viaggi allargano il teatro delle nostre immaginazioni fino allo Zambesi e possono a malapena lasciarci un confuso concetto di ciò che un uomo all'antica come Tulliver provava per quei luoghi dove si concentravano tutte le sue memorie e dove la vita pareva un maneggevole utensile familiare che le dita stringevano con affettuosa facilità. Proprio allora egli viveva in quella rinfrescata memoria del passato che viene a noi durante le ore passive della convalescenza. Eliuk, disse una sera, mentre stava guardando attraverso il cancello del frutteto, mi ricordo del giorno in cui sono stati piantati quei meli. Mio padre era un uomo fenomenale per far piantagioni, era festa grossa per lui quando poteva avere un carretto pieno di arboscelli giovani e io stavo sempre accanto a lui al freddo e lo seguivo nei suoi giri come un cane. Poi si volse e appoggiandosi allo stipite del cancello guardò la costruzione di fronte. Credo che sentirò la mancanza del vecchio mulino, Luke. C'è una storia che, quando il mulino cambia di proprietario, il fiume si arrabbia. L'ho sentita raccontare tante volte da mio padre. Non si può dire che non ci sia qualche cosa di vero in questa storia, perché questo mondo è un affare complicato. E il diavolo ci mette la coda. È stato troppo forte per me, lo so. Signore, disse Luke con simpatia consolatrice. Cos'è in confronto con la ruggine sul grano e col fuoco sui covoni e con tutto quel che ho visto io ai miei tempi? Le cose sono così strane tante volte. C'è il lardo del nostro ultimo porco che si scioglie come il burro e non lascia altro che un solletico nella gola. È proprio come fosse ieri, continuò Mr. Tulliver, che mio padre cominciò a fare il malto. Ricordo che il giorno in cui fu finita la malteria, io pensavo che dovesse venirne fuori qualche cosa di grosso, perché quel giorno avemmo del plum pudding e si fece un po' di banchetto e io dissi a mia madre, era una bella donna dagli occhi neri mia madre, la piccola le somiglierà come due gocce d'acqua. A questo punto Mr. Tulliver mise il bastone tra le gambe ed estrasse la tabacchiera, per godersi maggiormente questo aneddoto che gli usciva fuori a frammenti, come se ogni tanto la narrazione gli si smarrisse nella visione. Io ero un piccolo marmocchio che non arrivava nemmeno ai ginocchi della mamma. Lei aveva una grande tenerezza per noi bambini, Gritty e me, e allora io le dissi, mamma, le dissi, avremo del plum pudding tutti i giorni per via della malteria? Me la raccontò poi, sempre questa storia, fino al giorno della sua morte. Era ancora giovane quando è morta mia madre. Ma sono 40 anni buoni che la malteria è stata finita e da allora sono passati ben pochi giorni senza che io me la sia guardata là, dentro il cortile, per prima cosa al mattino, con qualunque tempo, tutte le giornate che portava l'anno. In un posto nuovo perderei la testa. Mi parrebbe d'aver smarrito la mia strada. Comunque, io prenda le cose, sono sempre dure, le briglie mi scorticheranno la pelle. Ma sarà pur qualcosa di tirare la carretta sulla vecchia strada, piuttosto che su una nuova. Signore, disse Luke, voi starete sempre molto meglio qui che in qualunque altro posto. Io, per me, non li posso sopportare i posti nuovi. Le cose sono sempre così strane. I carri hanno le ruote più piccole, per esempio, e le scale sono fatte in tutt'altra maniera e da certe parti si mangiano delle focacce d'avena. Là, verso le sorgenti della Floss. Brutta cosa cambiare di paese. Ma ho paura, Luke, che ci vorranno mandare a spasso. Ben, Tu dovrai tirare avanti con un solo ragazzo e io dovrò dare una mano al mulino. La tua situazione peggiorerà. Ah, che me ne importa, signore, disse Luke. Non ne farò una malattia. Sono stato 20 anni con voi e questi 20 anni non potete richiamarli con un fischio, come non potete far crescere gli alberi. Bisogna aspettare finché Dio onnipotente li fa venire su. Vito nuovo, facce nuove. Io non li posso sopportare, non posso, non si sa mai se non vi faranno del male. Dopo di questo, la passeggiata terminò in silenzio perché Luke si era svuotato dei suoi pensieri a tal punto che le risorse della sua conversazione rimasero del tutto esaurite. E Mr. Tulliver, dai suoi ricordi, era ricaduto in una dolorosa meditazione sulla scelta tra le difficoltà che aveva davanti a sé. Maggie notò che quella sera al tè egli era più assente del solito. Dopo il tè rimase seduto sul suo seggiolone a testa china, gli occhi fissi a terra, muovendo le labbra e tentennando il capo di tanto in tanto. Guardò quindi fissamente Mrs. Tulliver, che stava lavorando a maglia di fronte a lui. E poi Maggie, che china sul suo cucito, era intensamente conscia che un qualche dramma stava maturando nell'animo del padre. D'improvviso egli afferrò l'attizzatoio e frantumò con forza un grosso pezzo di carbone. Bontà divina, Mr. Tulliver, a cosa state pensando? Gli disse la moglie alzando gli occhi allarmata. È un vero spreco rompere così il carbone. Di pezzi grossi non ce ne rimangono che pochi, e poi non so come potremo averne dell'altro. Mi pare che tu non stia tanto bene stasera, babbo, disse Maggie. Mi sembri inquieto. Ma com'è che Tom non torna? Disse Mr. Tulliver con impazienza. Bontà del cielo, è già l'ora? Bisogna che io vada a preparargli da pranzo, disse Mrs. Tulliver, deponendo il lavoro e uscendo dalla stanza. Son quasi le 8:30, disse Mr. Tulliver. Sarà qui tra poco. Va, va a prendere la grossa Bibbia e aprila al principio, dove sono segnati tutti gli avvenimenti, e portami penna e calamaio. Maggie obbedì, meravigliata, ma il babbo non le diede altri ordini e rimase seduto in attesa del passo di Tom sulla ghiaia, irritato in apparenza dal vento che s'era alzato e mugghiava in modo da coprire tutti gli altri rumori. C'era nei suoi occhi una strana luce che a Maggie faceva quasi paura. Ella cominciò a desiderare che giungesse anche Tom. «Eccolo, alla buona ora», disse Mr. Tulliver eccitato, quando finalmente si udì bussare. Maggie andò ad aprire la porta, ma la madre uscì in fretta dalla cucina dicendo: «Un momento, Maggie, aprirò io». Mrs. Tulliver cominciava ad avere un po' di timore del figlio, ma era gelosa di qualunque servigio che altri gli rendesse. «La tua cena è pronta sul fuoco di cucina, figliuolo mio», disse, prendendogli il cappello e il pastrano. «Te la mangerai da solo, proprio come piace a te, e io non ti parlerò». «Credo che il babbo desideri Tom, mamma», disse Maggie. «Bisogna che gli venga subito in sala». Tom entrò con quel volto triste che aveva sempre alla sera, ma il suo sguardo cadde immediatamente sulla Bibbia aperta e sul calamaio. Lanciò un'occhiata di ansiosa sorpresa verso il padre, che stava dicendo: «Via, via, sei in ritardo, ho bisogno di te». «C'è qualcosa di nuovo, babbo?» disse Tom. «Sedetevi, tutti!» disse perentorio Mr. Tulliver. «E tu, Tom, mettiti qui, ho qualche cosa da farti scrivere sulla Bibbia». Si sedettero tutti e tre, guardandolo. Egli cominciò a parlare a bassa voce, fissando prima di tutto la moglie. «Ho preso la mia decisione, Bessie, e sarò buono come vi ho promesso. La stessa tomba è preparata per noi due e non dobbiamo serbarci rancore a vicenda. Rimarrò al mio vecchio posto, servirò sotto Wakem e lo servirò da galantuomo. Non c'è un Tulliver che non sia galantuomo, tienilo a mente, Tom». Qui la sua voce si alzò. «Mi si rinfaccerà che ho pagato un solo dividendo, ma non è colpa mia, è stato perché c'è delle canaglie a questo mondo, troppo forti sono stati per me e io debbo cedere. Piegherò il collo sotto il giogo, perché voi avete ragione di dire che sono stato io a cacciarvi nei guai, Bessie. Lo servirò da galantuomo, come se non fosse una canaglia. Sono galantuomo io, anche se non potrò mai più alzare la testa, sono un albero spezzato, un albero spezzato». E guardò per terra, poi di colpo alzò la testa e disse con voce più forte, quantunque più profonda: «Ma non gli perdonerò. So quel che si dice, che egli non ha mai voluto farmi del male. È così che il diavolo sostiene le canaglie. È stato lui a manovrare tutto. Ma è una persona distinta, lo so, non avrei dovuto fare la causa, dicono. Ma chi è stato a fare in modo che non si potesse giungere a un arbitrato né ottenere giustizia? Questo per lui non significa niente, lo so, è una di quelle persone distinte che accumulano quattrini, facendo gli affari della gente più povera e poi, quando li hanno ridotti alla mendicità, si mettono a fargli l'elemosina. No, non gli perdonerò, voglio che sia punito con l'infamia, a segno che perfino suo figlio desideri dimenticarsi di lui, che possa commettere qualche cosa per cui lo mandino a lavorare al mulino dei forzati. Ma non ci cascherà, è troppo furfante perché la legge riesca ad impossessarsi di lui. E tu, ricordati di questo, Tom. Tu non gli perdonerai mai, mai, se vuoi essere mio figlio. Verrà forse un giorno in cui potrà ricacciargli tutto in gola. Per me quel giorno non verrà, io ho messo la testa sotto il giogo. Ora scrivi, scrivi queste cose nella Bibbia. Oh, babbo, babbo, ma che cosa? Disse Maggie cadendo ai suoi ginocchi, pallida e tremante. È un peccato maledire e augurare del male. Non è peccato, te lo dico io, rispose il padre ferocemente. È peccato che le canaglie prosperino. È opera del demonio. Fa come ti dico, Tom, scrivi. Che cosa devo scrivere, babbo? Disse Tom con cupa sottomissione. Scrivi che tuo padre, Edward Tulliver, ha preso servizio sotto John Wakeham, l'uomo che aveva aiutato a rovinarlo, perché avevo promesso a mia moglie di riparare come potevo alle sue disgrazie, e perché desideravo di morire nei vecchi luoghi dove ero nato e dove mio padre era nato. Metti queste cose in bella forma, tu sai come, e poi scrivi che per tutto ciò io non perdonerò mai, mai a Wakeham. E che quantunque io intenda di servirlo con onestà, auguro che la sciagura cada su di lui. Scrivi questo. Ci fu un tetro silenzio mentre la penna di Tom correva sulla carta. Mrs. Tulliver guardava sgomenta e Maggie tremava come una foglia. Ora fammi sentire quello che hai scritto, disse Mr. Tulliver. Tom lesse ad alta voce, lentamente. Ora scrivi, scrivi, scrivi che ti ricorderai di quello che Wakeham ha fatto a tuo padre, che glielo farai scontare a lui e ai suoi se venga il giorno, e firma col tuo nome, Thomas Tulliver. Oh no, babbo caro, disse Maggie, quasi soffocata dallo spavento. Non devi far scrivere queste cose da Tom. Sta buona, Maggie, disse Tom. Io le scriverò. Libro quarto. La valle dell'umiliazione. 1. Gretta vita, direte, questa dei Tulliver e dei Dodson, non irraggiata da nobili principi né da romantiche visioni, né da un'attiva fede capace di rinunzie, non sollecitata da alcuna di quelle selvagge e indomabili passioni che creano le cupe ombre della miseria e del delitto. Priva di quella rozza e primitiva semplicità di desideri, di quella dura e obbediente fatica mal remunerata, di quella candida intelligenza di ciò che la natura ha scritto, che dà una sua poesia alla vita dei contadini. Qui, invece, una convenzionale nozione del mondo e un costume senza cultura né urbanità, la forma certamente più prosaica della vita umana, un orgoglioso senso della propria posizione sociale che va in giro su un calessino di vecchia foggia, una mondanità senza ornamento. A osservare da vicino questa gente, anche quando la ferrea mano della sventura li ha spazzati via dalla indiscutibile piattaforma su cui si sostenevano nel mondo, si scorge una lieve traccia di religione, ancor meno di un riconoscibile credo cristiano. La loro fede nell'invisibile, per quel poco che si manifesta, sembra piuttosto di una specie pagana. I loro principi morali, per quanto mantenuti con ferrea tenacia, non paiono avere altro fondamento che un'abitudine ereditaria. Voi non potreste vivere tra simile gente. Sareste soffocati dal bisogno di una evasione verso qualche cosa di bello, di grande, di nobile. Sareste irritati contro questi uomini e queste donne insignificanti, come contro una specie di gente incapace di intonarsi con la terra su cui abita, con questa ricca pianura dove il grande fiume scorre e scorrerà per sempre. e lega la breve pulsazione della vecchia città inglese coi battiti del possente cuore del mondo. Una vigorosa superstizione che flagelli i propri idoli o flagelli le proprie spalle. Par più conforme col mistero del destino umano che la condizione intellettuale di questi Dodson e di questi Tulliver così simili alle formiche. Io divido con voi questo senso di opprimente meschinità, ma è pur sempre necessario di sentirla se ci importa di comprendere come essa abbia influito sulle vite di Tom e di Maggie, come abbia influito sul carattere dei giovani di molte generazioni che per l'intima tendenza dell'umano divenire avevano superato il livello mentale della generazione precedente, a cui erano nondimeno avvinte dalle più intime fibre dei loro cuori. La sofferenza, sia del martiro sia della vittima, che va unita ad ogni progresso storico dell'umanità, è così rappresentata in ogni luogo e da centinaia di cuori oscuri. Né dobbiamo rifiutarci a questo paragone delle piccole cose con le grandi. Non ci dice forse la scienza che i suoi più alti sforzi tendono appunto a riconoscere l'unità che lega le più piccole cose con le più grandi? Nelle scienze naturali, per quel che ho inteso, non c'è nulla di meschino per l'intelligenza che possegga un'ampia visione dei rapporti, tale che ogni oggetto singolo le richiami tutta una folla di circostanze concomitanti. Lo stesso si verifica senza dubbio nell'osservazione della vita umana. Il vicario della tranquilla parrocchia rurale non era un controversista, bensì un bravo giocatore di whist, che aveva sempre la celia pronta per le sue floride parrocchiane. La religione dei Dodson consisteva nella riverenza per tutto ciò che era tradizionale e rispettabile. Bisognava essere battezzati, perché altrimenti non si poteva essere sepolti nel cortile della chiesa, e ricevere i sacramenti prima della morte, come una garanzia contro molti pericoli vagamente presentiti, ma bisognava ugualmente avere per il proprio funerale dei corretti portatori del drappo funebre, nonché dei prosciutti ben salati, e lasciare un testamento inoppugnabile. Un Dodson non doveva essere accusato di aver omesso nulla di ciò che fosse decoroso o che appartenesse alle immutabili convenienze, quali erano chiaramente indicate dall'esempio dei più importanti parrocchiani e dalle tradizioni di casa, come l'obbedienza ai genitori, la fedeltà alla famiglia, la solerzia, la rigida onestà, la frugalità, la perfetta pulizia degli utensili di legno o di rame. Il tenere in serbo le monete che probabilmente stavano per scomparire dalla circolazione, la produzione di merci di prima qualità per il mercato e una preferenza generale per tutte le cose fatte in casa. I Dodson erano una razza molto orgogliosa e il loro orgoglio si fondava su una perentoria smentita di chiunque volesse accusarli di essere venuti meno a un dovere o a una convenienza tradizionale. Sano orgoglio, sotto parecchi rapporti, dal momento che identificava l'onore con la perfetta integrità, con la compiutezza del lavoro e con l'adempienza alle regole riconosciute. Del resto, la società va debitrice di certe pregevoli qualità di parecchi dei suoi membri alle madri del tipo Dodson, che hanno ben fabbricato il loro burro e il loro pane e si sarebbero sentite disonorate se avessero fatto altrimenti. Essere onesti e poveri non fu mai la parola d'ordine dei Dodson, e ancora meno parere ricchi pur essendo poveri. Piuttosto, la divisa familiare era d'essere onesti e ricchi, e non solo ricchi, ma più ricchi di quanto si era creduti. Vivere rispettati, avere degli accompagnatori corretti al proprio funerale, coronava gli scopi dell'esistenza, la quale sarebbe stata interamente frustrata se, alla lettura del vostro testamento, voi vi foste diminuiti nella stima dei vostri simili, sia con l'apparir più poveri di quanto vi si era creduti, sia con l'aver disposto del vostro denaro in maniera capricciosa, senza una stretta osservanza dei gradi di parentela. La buona regola doveva sempre essere osservata verso la propria famiglia. E buona regola era di correggere severamente quelli che non facessero onore al casato, senza tuttavia diseredarli della benché minima parte della loro spettante di legacci da scarpe e altre proprietà dei Dodson. Una notevole qualità del carattere dei Dodson era la franchezza. I loro vizi, non meno che le loro virtù, erano aspetti di un fiero, onesto egoismo, che aveva in cordiale dispetto tutto ciò che venisse fatto contro la propria reputazione o il proprio interesse. La stessa qualità di fede tradizionale scorreva nelle vene dei Tulliver, ma era incorporata in un sangue più ricco, che conteneva degli elementi di generosa imprudenza, di caloroso affetto e di ardente improntitudine. Il nonno di Mr. Tulliver soleva vantarsi discendente da un Ralph Tulliver, individuo di meravigliosa intelligenza che si era rovinato. È abbastanza probabile che l'intelligente Ralph fosse un gaudente, montasse dei cavalli focosi e fosse assai ostinato nelle proprie opinioni. Per contro, nessuno aveva mai sentito parlare di un Dodson che si fosse rovinato. Questo non era nei sistemi della famiglia. Tale essendo la visione della vita in cui i Dodson e i Tulliver erano stati cresciuti, ai lodevoli giorni di Pitt e dell'inflazione, voi potrete dedurre in base a quanto già sapete sullo stato della società di St. Oogs, che nessuna influenza, sia pur d'alta portata correttiva, avrebbe potuto agire su di loro in un'età matura. Era perfino possibile anche nei tempi più recenti della predicazione anticattolica che la gente serbasse parecchie idee pagane e si credesse non di meno fedele seguace dell'anglicanesimo. Talché non dovremmo meravigliarci del fatto che Mr. Tulliver, quantunque frequentasse regolarmente il tempio, scrivesse un proposito di vendetta sul foglio di guarda della sua Bibbia. Né di ciò poteva attribuirsi alcun torto al vicario della graziosa parrocchia rurale a cui apparteneva il mulino di Dorlcote. Costui era uomo di ottima famiglia, scapolo irreprensibile, di studi eleganti, aveva preso i suoi gradi e deteneva una borsa universitaria. Mr. Tulliver gli manifestava il dovuto rispetto, come faceva d'altronde verso tutto ciò che si riferiva al servizio ecclesiastico, ma riteneva che la Chiesa fosse una cosa e il buon senso un'altra, né aveva bisogno che qualcuno venisse a spiegargli che cos'era il buon senso. Certe sementi che necessitano di una giacitura speciale contro le circostanze sfavorevoli sono state provvedute da natura di un apparato di uncini in modo che se possano far presa sulle superfici più disadatte. La semente spirituale che era stata fornita a Mr. Tulliver era evidentemente sprovvista di accessori di questo genere e per questa totale mancanza di uncini i venti l'avevano spazzata via.